ospiti al telefono e dei Magnetics nella veste di Olly Riva, il frontman. Ciao Olly, benvenuto. Ciao, tutto bene, tutto bene? Tutto bene, qui tutto bene, bentornato, visto che comunque un paio d'anni fa eravate stati già nostri ospiti in occasione quando avete fondato questo nuovo gruppo, questo nuovo progetto The Magnetics. Partiamo proprio da lì, se ci vuoi raccontare com'è nata questa band, come mai avete soprattutto cambiato anche stile, visto che tu vieni dagli Shandon, dove facevate invece ska punk, ska core, qui invece vi siete spostati più sulle sonorità giamaicane degli anni 60. Sì, guarda, la cosa è nata molto naturalmente perché io e Massa, il chitarrista di Shandon, avevamo questa passione comune per l'early reggae, lo skinhead reggae, l'early ska, eccetera, e praticamente durante i nostri soundcheck con gli Shandon ci facevamo la conosci questa, te la ricordi questa, e a un certo punto ho detto, ma sarebbe bello fare dei pezzi così, però poi per gli Shandon non andavano bene. E allora è nata questa cosa tra me e lui di pensare a una band alternativa, cioè parallela agli Shandon. E così è stato, nel giro di pochissimo abbiamo fatto un disco, abbiamo fatto partire già un tour e abbiamo avuto già subito sul primo disco abbiamo avuto dei feedback super positivi dappertutto, Sud America, Francia, eccetera. Non ti nego che ci siamo molto gasati di questa roba. E allora a tempo zero abbiamo già fatto un secondo disco e durante la realizzazione del secondo disco praticamente metà della formazione è cambiata per insomma questioni personali, lavorative, roba così. E niente, quindi adesso siamo in cinque, abbiamo un tastierista Gange che è un tastierista storico di Gangiamama, di Smoke, Awa, insomma tantissimi personaggi, e ho preso parte della formazione di Shandon con me. Quindi adesso i nuovi Magnetics sono tre quarti Shandon, diciamo. Ho visto avete aggiunto anche un fiato, un sassofono che non c'era nella formazione originale. Esatto, hai ragione, esattamente così. Anche lui dagli Shandon. E Marcello Shandon arriva dagli Shandon, sì. Ok, ok, quindi ti sei riportato a casa, insomma, i vecchi amici degli Shandon, con i quali comunque continuate a suonare, perché anche gli Shandon qualche anno fa vi siete riuniti, e anche lì vedo che producete sempre musica nuova anche. Sì, il disco nuovo è uscito meno di un anno fa, siamo in promozione sia con questo che con l'altro progetto, diciamo che suono parecchio. Anzi, ti dico la verità, oggi festeggiamo perché quest'anno, cioè oggi proprio in particolare, è la centesima data di quest'anno tra Shandon e Magnetics, quindi siamo molto esubili. Però sì, tra l'altro sì, tu tra mille progetti ne hai avuti anche tanti altri oltre a questi qui, e con questi due diciamo i principali. Comunque ho visto, infatti avete fatto una marea di concerti in appena due anni che vi siete formati, avete insomma fatto un sacco di concerti anche in giro per l'Europa. Sì, infatti, guarda, esistiamo da quasi tre anni e abbiamo superato abbondantemente i 250 concerti in tre anni, quindi siamo molto contenti. Poi adesso le cose stanno migliorando ancora perché abbiamo questo rapporto con Susan Cadogan, che è nella stessa etichetta nostra, che è la Grover tedesca, e Susan Cadogan praticamente ci ha un po' adottati come sua band per alcune date natalizie che andremo a fare adesso tra poco in Germania e per alcune date che abbiamo appena fatto con lei in Italia. C'è già in programma altre cose con lei tra Inghilterra, Germania e ancora Italia, e quindi questa cosa sta generando diciamo un po' di promozione sul nostro nome anche a livello internazionale. E non per ultimo a dicembre andiamo anche in Messico a fare lo Ska Wars Festival, diciamo che però, insomma non ci si può lamentare, no. È veramente un bel periodo. Una gran bella soddisfazione sicuramente. Poi appunto già diciamo, per una band italiana andare in Europa già non è facilissimo di per sé, comunque c'eravate già stati anche prima di questa collaborazione con Susan Cadogan, che ho visto un mesetto fa più o meno ha fatto il suo primo concerto in Italia in assoluto, è stato, non aveva mai questo weekend, cioè quello che è appena arrivato. Ah, ok, una settimana le sue prime tre date. Ok, sì, lei è grande artista giamaicana, quindi insomma anche una bellissima esperienza che si aggiunge diciamo al vostro curriculum, fargli da backing band, sicuramente è una gran soddisfazione quella. Sì, assolutamente, poi lei è una persona dolcissima e diciamo che avere a che fare con giamaicani è sempre un po' un casino perché a livello culturale ci vedono un po' strani e eccetera, mentre lei abita un po' a Londra, un po' a Miami e un po' a Kingston, quindi comunque è una persona abituata ai cambi culturali, alle lingue, al cibo, e quindi è una persona molto più aperta. Quando invece hai a che fare con musicisti giamaicani che prevalentemente vivono in Giamaica, sei sempre lì un po' a sperare che vada tutto bene, perché sono sempre un po' fuori di testa, quindi vabbè. Sì, un'altra mentalità sicuramente rispetto a noi europei. E appunto avete fatto una marea di concerti anche in Europa. Qual è il posto più bello dove avete suonato, che vi ricordate magari con più affetto? Ma guarda, per ora più affetto, ma anche se non è il posto più bello dove abbiamo suonato, ma più affetto sicuramente è stato in Polonia il novembre scorso, che diciamo che abbiamo fatto un concerto per il 17 novembre, che tra l'altro è il mio compleanno, e data in aereo tutto quanto, quel giorno lì abbiamo venduto tipo 33 copie del vinile del nostro disco, e i ragazzi dell'organizzazione tipo che mi hanno regalato un portafoglio con il logo del festival e il mio nome sopra, il nome della band, ma è veramente un affetto incredibile. No, sai cos'è la cosa assurda? È che suonare in Italia è sempre più difficile, e avere feedback non tanto sullo scamo, ma proprio in generale. Mm-hmm. E quindi avere questi feedback assurdi all'estero per cose che tu fai nella tua cameretta qui a casa è veramente impagabile, mentre vedere che comunque il tuo paese ti prende sempre per scontato, cioè in giro ho visto dei ragazzi giovani che hanno delle band che potrebbero assolutamente aspirare a fare qualcosa di buono, però sono talmente nell'ottica che in Italia non può succedere niente che puntualmente una band si scioglie piuttosto che non vede un futuro e quindi continua a suonare nel proprio paesino, al limite arriva alla città più vicina una volta all'anno e la cosa finisce lì. Questa cosa è veramente un freno a mano culturale devastante. Quindi io onestamente mi sono proprio imposto di uscire da questa logica di mentalità, e come altre persone bene o male della mia generazione, tipo Enrico dello Sfastidio, piuttosto che i Peewees, e tanta gente che sta avendo tanti risultati all'estero proprio perché sono stufi di stare a aspettare che l'Italia si svegli. Quindi... Sì, sì, sì, purtroppo una triste storia tutta italiana questa. E, tornando alle vostre produzioni, avete fatto due album in questi 2-3 anni di attività. L'anno scorso avete pubblicato anche un nuovo singolo, una cover di Come Prima di Tony Dall'Ara, fatto insieme proprio a Tony Dall'Ara. Esatto. Com'è nata la collaborazione con questo cantante? Praticamente qualche anno fa ero in contatto con un manager che organizzava concerti dalle parti di Bergamo, così. E parlando del più del meno è saltato fuori che lui è stato per un periodo il manager personale di Tony Dall'Ara. E io, essendo fan di Tony, gli ho detto: cavolo, ma sai che sarebbe una figata averlo per fare una sua cover? E da cosa nasce cosa, lui ha detto di sì e niente, è venuto in studio, è stato carinissimo, ci ha raccontato delle cose incredibili, tipo di quando ha toccato la mano di Marilyn Monroe che non se l'è lavata per 2 settimane o quando ha fatto concerti per attori e musicisti americani che venivano in Italia per promuovere il proprio film, cose di questo tipo, e gli davano una mano a far promozione i cantanti famosi dell'epoca, e lui nel 57 è uscito con Come Prima, quindi ovviamente aveva un'esposizione incredibile, quindi storie veramente di altri tempi, delle robe incredibili. Sì, sicuramente fare collaborazioni con cantanti del suo calibro porta sicuramente a conoscere qualche aneddoto, qualche storia interessante di quegli anni. Sì, poi lui nella sua carriera ha cantato in tutte le lingue del mondo, cioè io sapevo che aveva fatto delle collaborazioni all'estero, ma non pensavo così grosse, cioè nel senso che se vai su YouTube trovi i suoi pezzi in turco, in lingue, in russo, in spagnolo, per assurdo non le ho trovate in inglese, le ho trovate tutte in lingue del mondo, ha fatto tour in tutto il mondo, in Canada è ancora un king, ma in Italia la cosa triste è che a volte viene un po' deriso come personaggio simpatico della televisione, ma in realtà è un artista con la A maiuscola, insomma. Questo vostro singolo è, diciamo, un preludio, anticipa un nuovo futuro album? Siete in lavorazione a qualcosa oppure no? Sì, in realtà il disco nuovo, cioè il terzo disco, è in lavorazione, sono a 3/4, ho già quasi finito tutto, però diciamo che prima di farlo uscire avrei piacere prima di chiudere determinate cose legate alla promozione di Coffee and Sugar, che è il secondo disco che abbiamo fatto, quindi appena c'è modo di trovare l'opzione migliore usciamo con il terzo disco, che ti ripeto, abbiamo già tipo 13 pezzi quasi pronti, finiti. Bene, quindi ci siamo quasi. Bene, veniamo a questa sera, sarete in concerto qui a Bologna, la prima volta per voi qui a Bologna, come sarà il concerto di questa sera? Ma devo dire che finalmente a Bologna, perché venire a suonare a Bologna è sempre un'impresa incredibile, cioè nel senso che non vorrei troppo lamentarmi, ma nel senso è più facile organizzare un concerto a Helsinki. No, ma è vero, non è una lamentela, purtroppo è così. Non capisco perché, però negli ultimi, non sto esagerando, negli ultimi 15 anni ho suonato due volte a Bologna, cioè quindi, anzi no scusa, tre con quella di oggi. Che non è un gran numero, insomma. Sì, no, beh, visto soprattutto la città. Non capisco cosa succede, perché comunque è una città mega musicale, non capisco perché tutta questa ristrettezza, non l'ho capito, però ce lo chiediamo anche noi. Vabbè, anyway, comunque da stasera sicuramente bisogna aspettarsi una serata bella energica, perché ripeto, visto che non è facile venire in questa città, vorremmo dare il massimo, quindi siamo presi bene. Sicuramente sarà una bellissima serata, d'altronde io poi dopo avrò l'onore di continuare a far ballare i presenti con delle selezioni ska, quindi ci vediamo tutti questa sera al Mercato Sonato per il concerto dei Magnetics. Venite, mi raccomando, facciamo un appello agli ascoltatori, venirsi a godere una bella serata. Le serie televisive le potete guardare quando volete. Esatto, quelle anche di notte, in qualsiasi altro momento. Il concerto questa sera, quindi non perdetevelo. Bene, grazie mille Olli intanto per essere stato in nostra compagnia, ci vediamo poi insomma questa sera. Va bene, grazie mille e a presto. Grazie a te. Ci salutiamo, visto che l'abbiamo parlato, ci ascoltiamo proprio il singolo come prima fatto insieme a Tony Dallara. Ciao Olli. Yeah. Ciao, a dopo.